Ready! Hey, just like that, not tag away! Signor Bacchiglio, buonasera anche a lei. Come ti mai sei così basso di segnale? Ah, ma sei giusto. Signor Bacchiglio. Sì, aspetta un attimo, sto finendo, dai, dimmi. Come te mai? Su se salito. Su. Andare. Cosa c'è Gumminelli? Buonasera. Grazie a lei. Stavo impazzicando. Stavo controllando delle capsule che ho, quelle buone, quelle no. Si è un po' tutto. No, sono 7 che ti hanno 250 ohm, 270 ohm, 100 ohm, 0 ohm. 100 ohm? Ma dove deve andare bene? E dove deve andare bene? C'è quella che ho comprato a Fusaro, c'è a 120 ohm, mi sembra io. Mi sa che chi sa, è troppo, Massimo. Dovrebbero andare ad essere buone a 80 ohm. No, sono caduti, sono. Invece mi ha fatto pagare 3 euro, 2,50, una cosa del genere, ma ce l'ho un annetto. Ma, caspita, che per il microfono dovrebbero essere 80 ohm. 100, boh, non lo so, non li ho mai provate da 100. Stiamo misurando così, però mi sono tirato testa mia, bisogna mettere Antonella a vedere come si misurano. Sì, non dovresti metterlo nel coso, dovresti metterlo a 1 per misurarlo. Non lo faccio dopo, io l'ho messo mi sembra a 20. No, a 20 no, a 10 non lo dovresti mettere. Io c'ho uno, due, tre, e verdi, nel verde. Non c'è che c'è uguale come il mio, invece è un po'. Allora, nel verde parte da 2 ohm parte. 2 ohm. Due ohm sarebbero... Aspetta, non me ne ammetto quanto è. Non me lo ricordo quanto è. Perché parte da 2, poi fa 200, 20, 2 e 200. Lui a dire legge di ohm. Chi è questo che ha bussato? Avanti con gli uomini. Ma state misurando, se non sapete la legge di ohm. Infatti non so come si misurano gli ohm, ti ho detto. Sì, c'è Maria, è quello che si è affacciato, si presenta, carta d'identità e patente. Ora è. Ha detto non negare e presentarsi. La prima presa è con la mano. Cosa vuoi che ti dica? Avanti l'amico. Bebe. Ma il signor Marino? Si è sentito, no? Si è sentito nel visto. Certo che andiamo dove andiamo. Si è sentito nel visto, lo dice si faceva vedere. Sì. Fermo così, fermo. La faccia domani. La stasera dove c'è gente. Oggi domenica ci sarà il cognato. Ci sarà il cognato, sì. Infatti. Va bene. Allora questa signora che c'è come misura di uomo, non si affaccia. Parlo, hanno pure la stasera di più. Non vado ganaria. Allora, non si è sentito stasera. Io ce l'ho, c'è Graziano nel PMR con Luca, deve essere. Ce l'ho giù il PMR, non mi ha parlato giù. Ce l'ho giù. No, io ce l'ho acceso, ma non entro nemmeno. A vedere di Rudy, ci ho fatto vedere. Ho capito. Ma con Luca, che cosa, dal monte? Deve essere. Non ho capito. Deve essere qua, la troncia allora. Non lo saccio. Va bene, Giulio, non si è sentito. Oggi devi darsi in giro. Nulla da fare allora. Infatti, nulla da fare. A meno che bacchino non sia Gian Maria di su, intendo PMR. Gian Maria PMR? Mi pare, ma non ti in lontananza lo sento. Strano, strano se sei lontananza. Non c'è giù, sono devo andare giù a prenderlo. Sì, non ti vedi nulla. Deve essere che in campagna deve essere. Gian Maria? Deve essere in campagna. Perché l'interno in lontananza. Al buio, cosa prendi? Con te di cercare. Ma non è campagna sua, non è, deve essere in campagna della figlia. Ah, ecco, allora sì. Se no in campagna sua era con te di cercare. Andiamo. Sì, a questo non la fai campagna, scende l'umidità. Magari in caso della figlia sono coperto. Infatti. Infatti è così. Oi, a casa, il gioco, boh. A casa è andato, sì. Dove? No, sabato ci devo andare, sabato prossimo. Ah, sabato prossimo, non pensavo che era oggi che dovevi andare. No, sabato prossimo, il 17. Capito, allora preparati. Se non mi va di la macchina, meglio non posso andare nessun luogo, che non me la rischio. Che cosa c'ha perché di bella sorte? Mi deve cambiare cinghia di distribuzione, pompa e quanto ce n'è. Perché quello bisogna farla. Quello da fare perché non puoi rischiare. Dopo i 100.000 chilometri devi farla per forza. O per anno o per cosa? O per 100.000. Sta giù 128. E allora, io ho fatto da poco lo stesso. L'ho fatto da poco, dovevo farla a 50 e l'ho fatta a 30. Del 2006, matricolata 2006, conta di 2007, ci sono già 10 anni, 17, 18, 12 anni. 10 anni di vita. E beh, ancora sei giovane. Quindi, come te motore è giovane, non è stata sfruttata. Poi è un diesel quello lì, no? Diesel. Ieri sono andato ieri mattina a Coso, a Cosoine, a Giuriscada, però andò a Cagliari, non me la rischio. Cagliari è troppo lunga, scalda, lunga la strada, cioè, il minimo, proprio passeggiando, ci vogliono un'ora e mezza. Andando alla media di 90, 90, 95, 100, caspita, il motore, anche se in quinta, dirami. Ma lì si può fare anche 120, 130, ci sono questi buoni, capito? Puoi sviluppare, però c'è sempre il rischio della macchina, che non è perfetta. Infatti. Voglio vedere domani quando fa vedere con me video la cosa, ma cosa mi dici? Bisogna la fare vedere. A te sei la lui dire, Vasco, o mi fai la macchina o ti ripiglio la mia figliola? No, che ve la giuria di tu, ma puoi andare a Ronga Ronga. Ah, tu me la devi fare prima dello di Zassetti. E forse lunedì o martedì gliela faccio. Così mi ha detto, mi sa guida. E una mattinata la fago, non è vivo, sai, una mattinata la fago. Intanto non ne so, c'è anche l'operaio. Che si doveva liberare il ponte, ecco cosa è. Come si liberava il ponte mi ha detto che mi chiamava. No, è ancora una gente giunta. Allora non ha finito, non ha finito. E anche lui ha i suoi appuntamenti sul giro dei clienti e bisogna accontentarli, capito? Io pure sono cubagene, noi che non rubagono, io pure rubago mentre l'altro. Noi che sono a cosa fammi la grazia, se no. Pago anche io come gli altri. È vero. camminando da Buffonelli, cosa fai? Lo detta a cavallo. Sì, dottore. Eia, attento tu, non io. Però, ma chi? Ho capito, c'è il sovrappopolamento, c'è Luca che è stato, buonasera. Avanti, Luca. Buonasera a voi, siamo appena rientrato, adesso come? Ah, come? Noi siamo a Milano e a Sassari, avanti to. Infatti, siamo, buonasera Luca, siamo a Sassari, non a Milano né a Torino. Luca! E a 2 secondi che me ne levo il giubbotto che c'è caldo qua, un attimo, arrivo Lasciami le voci tutto quanto il palazzo casera, e sotto accetto ti sei messo. Capito hai to? Luca ci messo sotto accetto. Ehi, ero grillo. Oh, va, oh. Ma cosa, non mi conforta, tra. Cosa bene, sarà su nel cavallo. Cazzo, perché il rumore fa male, sto uscendo. Ah, non stai uscendo male, ma questo microfono che hanno, zarri, che hanno apri, quasi, tra. Cosa va, la sarà su nel cavallo, tin. Bello. E adesso, bu. Così. Sì, va a zero di suo microfono. Ma chi? C'è il VIP, c'è un VIP che ha il microfono. Se esce bene, sta uscendo bene, forte, ha amplificato al massimo. Meglio così. Pilatina, ma chi ha detto che no? Manda per. Ce n'è un altro anche che perché si è affacciato prima di Luca. Non lo so chi sia. Luca! Se voglia chiacchierare, già siamo qua. Da figlio to. Aspetta to un attimo, arrivo Non siamo fuggenti, lasciami l'occhio. Andiamo. Certo. Allora già bacchi. Ehi, a Luca meravigliosamente forte stasera. No, non so se qua vicino oppure è su. Il segnale bisogna guardare. No, stavo guardando il segnale, stavo guardando l'apparato. Oh, Giulia, che andiamo bene. Andiamo bene meno. Allora, vediamo un po' chi c'è ancora dopo Luca. Nessuno, anche non sta nessuno. No, non ci sta nessuna. Andiamo così. Andiamo bene. Vai sabato mattina allora o sabato sera? Alle 3 del pomeriggio ho fatto. Tanto mia figlia è al corso e c'era lì alle 6. Quindi a quando arrivo io posso arrivare e sono dieta. Ecco, va bene. E poi ritorni la sera oppure dormi lì a Cagliari? No, ritorno la notte, ritorno stesso. La lascio, non lo so a che ora. E mi pongo in cammino, perché mi sto portando anche il cane appresso. Allora sì. Allora hai doppia compagnia. Infatti. Poi non so se viene un'amica di mia figlia, che abita qua vicino, abita. Quindi non lo so. Allora stai facendo un po' l'occhio tu. Se ti sei portato un'amica di tua figlia. Per me è moglie di burro. Ah, ma è da voglia di mettere il coso, il paraocchi non fa di nulla. Giulia, andiamo. Pettina. Allora devi fermare in strada per far scendere il cane, così è to. Infatti. Solo che se non mi faccio la macchina mi tocca andare in treno. In treno, ohia, ciufu. No, già è veloce adesso. Già sono più veloce di prima, già so. Ti ha spinto e sono veloce. E non ci metterà almeno 3 ore. Vabbè. Oh, io una volta che l'ha giubilato vado a Olbia a settembre. Anzi, fine agosto era. Stavo giocando da Olbia, a Chilipani ci arrivato in mezz'ora. Da Chilipani a Cagliari arrivato venire ancora. Oh, ma non c'è manco un quarto che è fatto. Vabbè, sai che vi bonghi a 2 ore. Arrivi a Cagliari, quindi. E alle 3 arrivi alle 5. Ce ne metti 2 ore. Allora poi ci buccano un treno per 9-3 ore. Andiamo via, andiamo, certo. E vabbè, dalla stazione si andrà a arrivare in Gallo Guetta. Non so che va a piedi, boh. Sì, oltre a Sibiglia, sono a piedi. Sibiglia oltre a... E non lo so che tipo si può alzare con Rugani. Ma tu fai Rugani, è vero. È in treno, Rugani non lo può alzare. Sì che si può salire il cane in treno. Ho già chiesto, ma hanno detto di sì. Ho detto, guardi che è un cane un po' grandetto, Ma di età? No, di grandezza. Di taglia è un po' grandetto. Tu è alto a mezzo metro. Allora sì, se te lo fanno portare in treno già va bene. Solo che in treno poi cercare di fare i suoi bisogni delle fasi in capo alla capostazione. No, già resiste, a voglia se resiste. Cata, già resiste lui. Se resiste sino ad arrivare a Cagliari. Sì, tu la povera bestiola. Sì. Il ritorno te lo fai veramente in treno. Se non va giù la macchina devo fare così. Prendi un alloggio. Cata, non da mese di genere, devo prendere di sabato a riconsegnarlo lunedì. Quindi per 2 giorni la prendi. Lo saranno con una spesa così alta, no? Più di 100 euro gli asso. Quindi, a 4 di me figlio aveva pagato 160 euro, 4 giorni. Devi prendere con il pieno e la devi ritornare con il pieno. Pieno a pieno. Ma se prendi un diesel, costa di meno e tutto. Gira, sì. Se voglio tipo un doppio Civirani. Che il cane piace benissimo, da dietro si sta comodo. Infatti, soltanto gli sto già comodo, vedo. È riposato. Adesso vedo. E se ti fa la macchina, per andare in treno e poi la sera per entrare, a che ora vedi? Nulla, deve dormire a Cagliari. No, alle 8 devi ripartire, perché parte alle 8. Parte alle 8, e allora fai, arrivando e partendo. Sicuramente sì. Arrivi alle 5 e alle 8 te ne devi tornare a andare. E macchinata. Allora conviene prendere la macchina. Conviene la macchina. E adesso vedo se me la fa, è buono, se no mi devo prendere per forza una macchina a noleggio. Conviene, per andare in treno ti conviene la macchina, perché sì, alle tue comodità, se no sei schiavo del treno. Magari che fruscende, buffonende, hai capito Bacchi, è così, vabbè, guardo. Vediamo che me la voccia. Sono con la curia, togliendolo. Avanti lu, io faccio la cosa. Sciacciara, dopo il sicuro. Aspetta, scusate un attimo, Marina, mi senti? Marina, mi senti? Marina, ci sei? Boh, non risponde, forse non mi sente. Come sei perché lu? Ci sono, mi senti? Brava! Ci sono, mi senti? Vabbè, comunque ho l'antenna. Prima c'avevo la magnetica dentro casa, arrivavo in bassa, con questa arrivi quasi in off, perciò sta funzionando, dai, già ti sento, tu mi senti bene? Sì, sotto chiaro. No, schiaccia bene il microfono, cosa hai detto, mi senti? Ti sento chiaro e abbastanza forte, lo stavo coprendo con la mano il microfono, forse per quello che non mi sentivi bene. Ah, ok, dai, va bene, dai, arrivi bene con quell'antenna, a voi, ahi, ce n'è anche per i voci, stazionario con quell'antenna 2-2 modulati. Io vi lascio. Vabbè, ciao, sentiamo dopo, ciao. 2-2, ciao. E allora devi ancora farli scendere per forza, Deve guardare il capo, quanto ce l'è lungo il capo? Allora, la misura del capo è 8,48 m, 36. La misura che c'è su internet. Allora, non basso, ci deve avere qualche cosa che devi mettere a massa con quell'antenna lì, devi fargli massa bene, devi fargli. No, quell'antenna non ha bisogno di massa, è un attorno 27. Ehi, appunto Barisse, che è un attorno 27, ha bisogno della massa. Non so, va attaccata a un tubo o va attaccata? Ho capito, adesso vedo. Io l'ho messa lì, al momento, devo trovare un punto dove metterla, non lo so. Non ho idea dove metterla con l'antenna. Ascolta a me, ma gaffe di stenditoio ci sono? Yes. Ci sono, allora attacca la gaffa dello stenditoio, attaccala, per bene. È una massa lì, agganciata con il coso, con il... ma rubin di ferro, dai, filo di ferro. No, vedi così. Una staffa di quelle a coso, a croce devi mettergli. Ho preso una staffa di quelle a croce. E adesso vediamo, dai, vediamo, forse dovrò raschiare anche perché c'è la vernice, ma non fa massa bene. Vediamo, diciamo, sì, va, non bene, di più. Arriva quasi 9, vedi un po'. Sì, come cosa sta funzionando, ma siccome devi stare attento anche con le stazionarie. Le stazionarie sono già 2 e 2, sono belle. Vero Bacchi? Sono arrivato al rosso, già c'è nero, ancora, e 2 e 2, scalderà un po', ma non funziona. Io stanno uscendo abbastanza bene, è chiaro proprio, bellissimo. Bisogna vedere un po' la massa, che se c'è la vernice, massa non ce n'è, la vernice isola. Raschiare un po', oppure metterci un po' l'olio, una vite, anche, ma la sorte è bucare e fare. E adesso vedo, dai, vedo un po' cosa fare. Adesso, la prossima settimana, cioè questa settimana che viene, dai, martedì, mercoledì, sai che porto la moletta, ti trovo una passatina di moletta al coso, così fa massa meglio. Infatti, oppure metterci una vite, forare, metterci una vite e legare la massa lì. Comunque ho messo un capo di massa dal ABL, che è dentro casa, all'antenna, cioè alla ringhiera. La ringhiera? Allora non c'è massa. Se c'hai 2 e 2 stazionari non c'è massa. Oppure è regolabile con l'antenna, oppure è telata fissa? No, non è regolabile, l'ho detto prima, l'attorno 27, basta andare su internet, non c'è bisogno di regolarla. No, è già tutto a posto, pronta a metterla in funzione. Stari, le stazionarie, in base al capo che metti, capito Bacchi? Mi altro te lo dico qua, aspetta. Io la conosco l'antenna, lo stormo, ce l'ho avuta quella Bacchi, quella deve avere massa buona, deve avere, anche se sta uscendo bene, deve avere massa buona per avere almeno uno di stazionarie, hai capito? Perché che antenna è tu? È stormo, da chi va, mi pare che sia lunga un metro e due. Ah, una specie di bazooka allora? Sì, una specie di bazooka, è quella lì, e quella devi raschiarla bene per attaccarla al tubo, al coso, devi fare bene, la devi fare, cioè sempre stazionari. Allora, i metraggi sono 2,73 metri, 5,46 metri, 8,48 metri, quello che ho fatto io ieri, perché prima era 12,34 metri, poi 17,98 e 23,77 centimetri. Io ce l'ho avuta quella lì, quindi devi mettere la massa per forza bene, la devi raschiare un pochino e mettergli una staffa di quelle aeree, hai compreso quale sto dicendo, quelli a croce. Non ho mai misurato, le stazionarie ne ho uno e due. Avete parlato in due, se non ho capito bene. Vabbè, vedo di fare qualcosa, dai, questo, la prossima settimana l'attacco di nuovo, forse magari perché c'è la vernice non fa massa bene, non lo so, boh. Vediamo un po' cosa riesco a fare, dai. Avanti tu. Luca, una staffa di quelle a croce, mitigli, come ho messo io i tubi su, la basta far croce, mettigli, che te la stringe più bene, te la tiene bene, te la tiene. E gli metti, e gli raschi il tubo, gli raschi dove, ha, dove va agganciata. Hai capito? Che così ti fa bene, massa ti fa. Sì, va bene, farò così, to. E non si muovi, Bussi, ma ti dice così senti io. Sì, vabbè, poi ma nel caso vedo un po'... Perché io su queste cose non ho fantasia, queste cose bisogna studiarle. Ma io ho studiato a Oxford. Non vedrà nulla di queste cose, no. Di queste cose degli antenne bisogna sapperle. Quando io ho iniziato queste cose, piano piano io me l'hanno fatti va e me l'hanno fatti. Piano piano, studiendo. Sì, scusatemi un attimo, ripetete voi. Nel caso che io non rientri, ritenetevi salutati, che mi sta spostando in cucina un attimo. Sì, ok, Luca. Si prende il signor Bacchi. Ciao Luca, buono pomeriggio, ci sentiamo. Alle prossimine. Avanti, do. È così la vita. Ha rotto questa sera, non è entrato nessuno. Devi darsi su tutti i furasi. Quindi, sono tutti fuori. Con il mezzo ancora se ci sono. Che ragione? Devo dormire anche lì. E me pare già, l'otto manco 20. Sono 20 io. Sì, tra un po' facciamo un merendero. Io mi ammabbaio tutte le giornate di Rai 3 della Sardegna. E la buia me ne andiamo a mangiare. E la Formula 1 cosa ha fatto la Ferrari oggi? Non lo sai. L'era Biden andava al numero 8. Mi pare che ha vinto Hamilton, come ti si chiama, campione del mondo. Stava la Girevalia, quello o vince di canna o vince di culo, sempre vinti e dovevi. La Mercedes mi proprio. Mercedes è lo usa quello lì. Pensando la Ferrari, non lo so andare l'altro, sono partite che Ferrari mangiasse il mondo. E ci siamo fermi mi sembra. E mi pare che Fettel mi pare che era secondo o terzo mi pare che era. Fettel, e Raikkonen c'era ancora più in fondo allo gomolo. Aspetta un attimino, io è terza o è seconda, ma che bisogna tutte e tre, c'è la Red Bull, la prima era la Mercedes, e poi c'è la Mercedes e la Ferrari e la Ferrari. Mi pare che sia seconda, mi pare. Mi pare seconda, chi è Peter o Raikkonen? Che è stato poi te lo dico. Allora vediamo, dove siamo andati. Ma al prossimo anno li rinnovo un anno e tutti e due, e corre a cavallo dall'aino. Fettele, cioè, mi pare che sia. Peter secondo, dove la vedi? C'ha più punteggio di Raikkonen. Dunque può andare bene. Almeno secondi questa volta si possono classificare le Ferrari. Sì, infatti, aspetta, si è classificato secondo. Va bene, mi chiede un pugno di lucchio. Andate bene, meno, dai, to. Io lo chiudo, me ne vado giù, mi guardo il telegiornale, anzi mi guardo un po' per questo di Formula 1, poi il telegiornale. Ci la sentiamo domani, Tore, salutissimi, grazie delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto, salutare e alle prossime. Ciao ciao Tore, buona buonasera ancora. Sì, ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani.